301. Scannello annegato. Non sapendo come chiamare quest'umido semplice e sano, gli ho dato il titolo di scannello annegato. Un pezzo di carne di manzo di vitella tutto magro e senza osso, tolto dallo scannello, di circa grammi 800. Grasso di prosciutto grammi 80. Una grossa carota o due mezzane. 3 o 4 costole di sedano lunghe un palmo, mezzo bicchiere di vino bianco asciutto e, mancando questo, 2 dita di marsala. Staccate il pezzo della carne col suddetto grasso di prosciutto, tagliato in lardelli involtati nel sale e nel pepe, salatelo e legatelo onde stia unito. Tagliate a pezzetti la carota e il sedano, e metteteli in fondo a una cazzaruola piuttosto piccola, ponendoci sopra il pezzo della carne, e copritela d'acqua. Fate bollire adagio a cazzaruola coperta, e quando avrà ritirato l'acqua, passate dall'ostaccio il sugo e gli erbaggi, che poi rimetterete al fuoco insieme con la carne e col vino. Cotto che sia, servitelo affettato con sopra il suo intinto. Potrà bastare per 6 persone. Come avete notato in questa e molte altre ricette della presente raccolta, la mia cucina inclina al semplice e al delicato, sfuggendo io quanto più posso quelle vivande che troppo complicate e composte di elementi eterogenei recano imbarazzo allo stomaco, ciò nonostante un mio buon amico, per iscambio, la calunniava. Essendo egli stato colpito da paralisi progressiva che lo tenne infermo per oltre 3 anni, non trovava altro conforto alla sua disgrazia che quello di mangiar bene, e quando ordinava il pranzo alla sua figliuola non mancava di dirle: «Bada di non darmi gli intrugli dell'artusi!» Questa signorina, che era la massaia di casa, avendo ricevuta la sua educazione in un collegio svizzero del canton francese, si era colà provveduta del trattato di cucina di Madame Rubinet, e volgendo a questo tutta la sua simpatia, poco punto si curava del mio. Gli intrugli lamentati dal padre erano dunque di questa madama dal rubinetto, la quale, si vede, dava con questo la via, più che non farei io, alle acque torbe della cucina.